Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Siamo in Italia, agli albori dell'automobilismo, quando ancora lo sport è un gioco prima che un business e l'uomo conta più della macchina. La storia che raccontiamo è fatta di sudore e lacrime, eccitazione e pericolo, passione e tecnologia. È la storia di due vite eccezionali, di due uomini straordinari che incroceranno il loro destino per dare vita a un mito intramontabile. E allora, tenetevi forte, i motori sono caldi, il piede è pronto sull'acceleratore. Semaforo verde, si parte. È l'inizio del secolo, siamo in provincia di Mantova. Tra i campi della pianura padana c'è un ragazzo gracile, piccolo di statura, vivace e poco incline allo studio. Sta giocando con i suoi amici. È appassionato di motori. Il suo nome? Tazio Nuvolari. Tazio Nuvolari. Tazio nasce a Castel Dario il 16 novembre 1892 in una ricca famiglia agraria. Fin da bambino dimostra di essere determinato, coraggioso, ardito, tanto che ha il suo primo incidente a soli 5 anni, quando cade rovinosamente da cavallo e la frattura è così grave che per tutta la vita avrà una gamba più corta dell'altra. Lo zio Giuseppe, uno dei primi commercianti di moto bianchi, corre su pista. È un campione ed è lui ad avvicinarlo ai motori, che per Tazio cominciano a diventare un chiodo fisso. Ed è sempre lo zio Giuseppe che per primo lo fa salire in sella a una moto e gli insegna a guidarla. D'altra parte, all'inizio del Novecento, l'interesse per le macchine, lo sviluppo tecnologico e il progresso si respira ovunque. Il futurismo, avanguardia artistica e letteraria, alimenta questo spirito. È l'espressione del dinamismo del mondo moderno, esalta la civiltà della tecnica e fonda l'estetica della velocità. Nel manifesto del futurismo di Marinetti del 1909 si legge: un'automobile da corsa, col suo cofano adorno di grossi tubi simili a serpenti dall'alito esplosivo. Un'automobile ruggente, che sembra correre sulla mitraglia. È più bella della vittoria di Samotracia. E sentite quest'altro scorcio del manifesto, recitato dall'inconfondibile voce di Carmelo Bene. È un vero e proprio inno alla velocità. La letteratura esaltò fino ad oggi l'immobilità pensosa, l'estasi, il sonno. Noi vogliamo esaltare il movimento aggressivo, l'insonnia febbrile, il passo di corsa, il salto mortale, lo schiaffo e il pugno. Noi affermiamo che la magnificenza del mondo si è arricchita di una bellezza nuova, la bellezza della velocità. Non v'è bellezza se non nella lotta. Nessuna opera che non abbia un carattere aggressivo può essere un capolavoro. Noi siamo sul promontorio estremo dei secoli. Perché dovremmo guardarci alle spalle se dobbiamo sfondare le porte misteriose dell'impossibile? Il tempo e lo spazio morirono ieri. Noi viviamo già nell'assoluto, perché abbiamo già creato l'eterna velocità onnipresente. In questo clima di fervore ed eccitazione all'alba del Novecento, l'industria dell'automobile sta crescendo. Ormai i piccoli costruttori non bastano più per far fronte alle esigenze dell'automobilismo moderno ed è così che fanno la loro comparsa le grandi fabbriche. In Francia e Germania la Peugeot e la Benz, in Italia la Fiat che va ad affiancare le leggendarie Itala e Isotta Fraschini. Poco più tardi è il momento dell'industria sportiva vera e propria, guidata da marchi di prestigio come Alfa Romeo. Vengo a prenderti stasera, suona il clacson, scendi giù e mi troverai seduto sulla mia torpedo blu, sulla mia torpedo blu, sulla mia torpedo blu. L'Italia nel 1915 è spaccata in due. Gli interventisti da un lato vorrebbero che il paese prendesse il proprio posto tra le potenze impegnate nella tragedia del primo conflitto mondiale. Dall'altro lato, una nutrita fetta di opinione pubblica è contraria alla guerra. Alla fine prevalgono gli interventisti. Tazio Nuvolari a quell'epoca è un ragazzo di provincia, umile, semplice, di immensa umanità. La sua passione per i motori lo spinge al fronte. Quando scoppia la Prima Guerra Mondiale nel 15, lui, che ha già fatto il servizio di leva, viene richiamato nell'esercito come autiere. Durante la guerra guida autoambulanze della Croce Rossa, camion e vetture che trasportano gli ufficiali tra le prime linee e le retrovie del fronte orientale. È proprio con un ufficiale che un giorno Tazio finisce fuori strada e riceve uno storico ammonimento che presto disattenderà. Dammi retta, lascia perdere, l'automobile non fa per te. Intanto la guerra continua. Tazio, che non combatte in prima linea, nel 17 si sposa con Carolina e nasce il loro primogenito, Giorgio. Il secondogenito, Alberto, sarebbe nato 10 anni dopo. Quando finisce la guerra, nel 18, e torna a casa, Tazio scalpita. Giocare coi motori non gli basta più. La febbre agonistica è più forte di tutto. Deve correre, provare l'eccitazione del volante, sentire il brivido del rischio. Sa che quella è la sua vita. Così, nel 1920, all'età di 28 anni, disputa la sua prima gara ufficiale con una motocicletta Fongri a Cremona. L'anno dopo, a Verona, vince. Nuvolari è tanto tranquillo e prudente nella vita quanto temerario sulle piste. Nel 1923, al Gran Premio di Spagna, durante le prove, convince la bella figlia del direttore del suo albergo a salire sulla sua moto e scommette che la bacerà al culmine della curva, lanciato a 150 all'ora. Tazio bacia la ragazza, vince la scommessa e la ragazza lo schiaffeggia. Tazio comincia ad alternare moto e auto e diventa pilota professionista per la Bianchi, dove conosce quello che sarà il suo amico nemico storico, Achille Varzi, compagno di squadra con il quale si instaurerà una rispettosa rivalità. Ma è nel 24 che Nuvolari incontra per la prima volta un uomo con il quale, anche se ancora non lo sa, sarà legato a doppio filo per tutta la vita. Siamo a Ravenna, davanti alla Basilica di Sant'Apollinare in classe, dove sono sistemati i box per il secondo circuito del Savio. Nuvolari è su una Chiribiri, il suo avversario su un Alfa 3 litri. Si tratta di un modenese grande e grosso, bravo come pilota, ma al quale il destino riserva ben altro brillante avvenire. I due diventano amici. Il modenese vincerà questa gara e sarà il nostro secondo protagonista. Il suo nome, però, ve lo sveleremo tra un po'. Per Nuvolari, intanto, le gare continuano e anche le vittorie. Ma nel 25, alle prove del circuito di Monza, succede l'imprevisto. Sta guidando la celebre P2, monoposto Alfa Romeo, progettata da Vittorio Iano per sostituire Antonio Ascari, morto in pista poco più di un mese prima. Ma le gomme sono a zero, la marcia si disinnesta, l'auto va fuori strada. L'impatto è fortissimo. Dall'incidente esce con tutte e due le gambe rotte. I medici gli dicono che non potrà camminare per un mese e che non potrà mai più correre. Ma lui non molla. La domenica successiva torna a Monza, sulla griglia di partenza, e si fa legare alla sua fedelissima moto Bianchi, chiedendo ai meccanici che lo afferrino quando arriva. In quelle condizioni vince la gara. È l'inizio della leggenda di Tazio Nuvolari. Nuvolari ha la moto nel cuore, quella moto che gli ha dato tanto, emozioni, brividi, vittorie e incidenti. Ma vuole cominciare a dedicarsi all'automobile, pur senza abbandonare la moto. Fonda a Mantova la scuderia Nuvolari, in società col rivale amico Varzi, con cui però l'accordo salta ben presto. L'Alfa Romeo, però, dopo l'incidente di Monza, non si è affatto dimenticata di lui. È il 1930, l'anno della svolta. Nuvolari, al volante della sua Alfa, partecipa alla Mille Miglia, la storica corsa Brescia-Roma e ritorno, e fa impazzire l'Italia. 16 ore ininterrotte di corsa favolosa, una media di 100 km all'ora. Perfeziona la tecnica della sbandata controllata. In curva, dà un secco colpo di sterzo, facendo slittare le ruote posteriori verso l'esterno, quindi controsterza, e schiaccia l'acceleratore a tavoletta. In questo modo esce di curva con la macchina già direzionata verso il rettilineo e nel pieno dell'accelerazione a velocità maggiore di chiunque altro. Il nome di quella gara è Mille Miglia, il sogno di ogni pilota. Si corre in Italia dal 1927 ed è la gara più affascinante di tutte, la più nobile. I suoi inventori si chiamano Aimo Maggi e Renzo Castagneto. Della Mille Miglia del 30 entra nella storia il sorpasso di Nuvolari ai danni di Varzi, quasi una vendetta beffarda per l'accordo saltato nella scuderia. Guidando durante la notte con i fari spenti, Nuvolari lo raggiunge e lo sorprende. A 3 chilometri dalla fine si accosta alla vettura di Varzi, gli sorride, accende i fari e vince. Nuvolari gioca, si diverte. D'altra parte il senso dell'umorismo non gli manca. Quando Totò gli chiederà di interpretare una piccola parte in Totò al Giro d'Italia, accetterà con entusiasmo. C'è Tazio! Chi? La finanza? No, Tazio Nuvolari, il nostro grande. Nuvolari! Sì, il ciclista. Professore, volante, automobile. Ah già, che stupido, corridore d'automobilistica. Sì. Questo ragazzo si farà, Alimentata da aneddoti come il sorpasso a Varzi, la fama di Nuvolari è alle stelle. Le gesta eroiche di questo pilota minuto e concentratissimo entusiasmano le folle. Tutti sono affascinati da quest'uomo tanto audace e irruente sulle piste quanto equilibrato e temperante come persona. Un pilota eccezionale, che sembra essere ossessionato dal tempo. Da un lato, il tempo che corre veloce, il tempo delle gare e dei record. E dall'altro, il tempo privato, lento, legato alla moglie e ai figli, che si diverte a immortalare in bellissime fotografie. Due volti della stessa medaglia, tenuti insieme dalla straordinaria audacia che caratterizza questo pioniere della velocità. Quasi spacciato! Ma Nuvolari rinasce come rinasce Ramarro, batte Varzi e Campari, Borzacchini e Fagioli, Brilli, Peri e Ascari. Nuvolari conquista tutti, perfino D'Annunzio, il quale un giorno gli regala un prezioso portafortuna a forma di animale. Sul biglietto c'è scritto «L'animale più lento all'uomo più veloce». È così che Nuvolari adotta come emblema personale il simbolo della tartaruga. L'automobilismo sportivo è costosissimo, pericoloso, elitario. Lo possono praticare in pochi. Eppure tutti seguono le vicende del mantovano volante, si appassionano alle avventure del lasso. Nuvolari è lusingato da tanta ammirazione, ma quello che più gli interessa al mondo è correre. In quel 1930 Nuvolari, complice la mitica vittoria della Mille Miglia, è ormai orientato verso l'automobile. Finora ha alternato auto e moto, quella moto con cui aveva cominciato e che era stata fonte di gioie e dolori. Ma quest'anno vuole cambiare. Dopo aver raccolto le ultime quattro strepitose vittorie, tra cui quella del circuito dell'Ario, nella quale con la sua Bianchi 350 sbaraglia tutte le 500, Nuvolari dà l'addio definitivo alla moto. Nello stesso anno, il pilota riceve un'offerta a cui non può e non sa rinunciare. Si fa avanti una nuova ambiziosa scuderia nata da una costola dell'Alfa Romeo. Il motivo per cui Tazio accetta è molto semplice. Vi ricordate il corpulento ragazzo di Modena che l'aveva battuto con la sua Alfa 3 litri qualche anno prima sul circuito del Savio? Beh, è proprio lui a farsi avanti. Si è ritirato dalle corse, ma l'ambizione è sempre la stessa. Vuole vincere ancora, anche se da imprenditore. Quell'uomo, proprio nel giorno del trionfo su Nuvolari, aveva ricevuto un portafortuna. Gliel'aveva donato la contessa Paolina Biancoli, madre di Francesco Baracca, asso dell'aviazione italiana. La contessa gliel'aveva dato con queste parole. «Metta sulla sua macchina il cavallino rampante del mio figliolo. Le porterà fortuna». Quell'uomo, naturalmente, è Enzo Ferrari. Enzo Ferrari. Scuderia Ferrari. Suona bene però, vero? Perché amiamo la Ferrari. Perché amiamo la Ferrari. È una rossa che ci ha preso il cuore, non soltanto la sua linea, il suo motore. Ed è passione senza gelosia. Destini incrociati. A Destini incrociati, due storie sfrecciano insieme a grande velocità. Sono quelle di Tazio Nuvolari, il pilota amato da tutti, e di Enzo Ferrari, un simbolo dell'Italia nel mondo. I due, il pilota e l'imprenditore, insieme, daranno vita a un mito intramontabile, il mito Ferrari. Chi è Enzo Ferrari? Circolano su di lei molte definizioni. Il mago di Maranello, Drake, il grande vecchio. Ce n'è qualcuna che le assomiglia? Non credo, perché non mi conosco. Quello che avete sentito era uno stralcio della lunga intervista che Enzo Biagi ha fatto a Ferrari nel 1982. È una delle poche che Ferrari ha concesso nella sua vita. Enzo nasce a Modena il 18 febbraio 1898, ma per colpa di una fortissima nevicata, la sua nascita viene registrata 2 giorni dopo. Fin da piccolo è appassionato di sport, soprattutto di motori, perché suo padre ha un'officina e gli piace scrivere. Le due vocazioni trovano una perfetta sintesi quando nel 14, ancora giovanissimo, inizia a fare il corrispondente per la Gazzetta dello Sport. La Gazzetta lanciò la corsa al sol, la corsa al mare. Tutti gli assi della bicicletta è per un sogno sol partecipare. Noi raggiungeremo la riviera in fior. Fiori di Sanremo. Per il vincitore. Quando scoppia la prima guerra mondiale, viene arruolato nell'esercito, ma subito è congedato a causa di una pleurite. Suo padre e suo fratello sono appena morti. Enzo sta male, il dolore è immenso. Solo e disperato, cerca lavoro in Fiat. Non lo assumono. Il destino, si sa, a volte prende strade tortuose. Enzo è preso dallo sconforto, ma non sta ad aspettare. Ha un carattere risoluto e serio, con la testa sulle spalle. Così inizia a lavorare in una piccola impresa meccanica e, parallelamente, dà il via alla sua carriera di pilota per l'Alfa Romeo. L'avventura di Enzo al volante dura poco. Nel 32, con la nascita di suo figlio Dino, si ritirerà per sempre dalle gare. Intanto però nel 24 riesce a battere proprio Nuvolari, l'uomo dei record, al circuito del Savio, Ravenna. È qui che i due si conoscono ed è qui che Enzo riceve un portafortuna, quel cavallino rampante che di lì a poco avrebbe messo sulle sue auto e che è diventato uno dei simboli dell'Italia nel mondo. Ma andiamo con ordine. L'Alfa Romeo accetta di perdere Ferrari come pilota, ma non vuole rinunciare al suo prezioso contributo. Siamo nel 29, l'anno del terribile crollo delle borse che metterà in ginocchio il mondo, quando Enzo è chiamato a Milano per intraprendere una vera e propria impresa. Deve fondare una scuderia di auto da corsa collegata all'Alfa Romeo. Enzo accetta entusiasta. Nasce la scuderia Ferrari. I remember when we were driving in your car. Speed so fast, I felt like I was drunk. City lights lay out before us. Your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. Siamo nel 29. Enzo Ferrari ha appena fondato la sua scuderia da una costola dell'Alfa Romeo. Si occupa lui dello sviluppo delle vetture e della ricerca dei piloti. La scelta è delicata. La concorrenza in pista è spietata e chi corre deve essere molto bravo a tenere l'auto, in questi anni in cui ancora il rischio di morire durante una gara è altissimo. Serve autocontrollo, voglia di vincere. In due parole serve Tazio Nuvolari. Chi le guiderà? Ma non si preoccupi! Abbiamo con noi Tazio Nuvolari! Era una scena di Ferrari in cui Sergio Castellitto interpreta Enzo. Ferrari e Nuvolari sono amici. Si sono conosciuti anni prima in pista, ma questo è il vero momento in cui uno accende la vita dell'altro. Le automobili della scuderia Ferrari faranno Nuvolari ancora più grande e viceversa Nuvolari contribuirà con le sue vittorie a rendere la Ferrari un mito di tutti i tempi. La Ferrari ha ingaggiato i piloti che erano disponibili sul mercato, ma oserei dire che non sono le fabbriche che ingaggiano i piloti, ma sono i piloti che scelgono le fabbriche. Difatti, i piloti intelligenti vanno sempre dove c'è la macchina vincente. Ferrari e Nuvolari, uno grande e grosso, l'altro minuto e gracile, già al primo incontro si sono piaciuti subito, si è creata un'empatia immediata. Entrambi sono giovani, propositivi, audaci. Hanno voglia di fare e di affrontare nuove sfide. In comune hanno anche una sottile timidezza, uno spiccato senso del dovere e una profonda modestia. Era ovvio che Ferrari, chiamato a scegliere i nuovi piloti per la scuderia, volesse come punta di diamante proprio Nuvolari, che oltre a essere il più grande pilota vivente, era anche suo grande amico. Uno è un talento naturale, può fare il corridore. Non lo diventa. Bisogna essere dei talenti naturali per essere dei piloti all'apice. Ferrari è lucido, ma non è un calcolatore. Basa molte delle sue decisioni sull'istinto. e l'emotività a muoverlo. Ha fiducia nelle scelte di Pancia. Che cosa ha giocato di più nella sua storia? La passione o il desiderio di affermarsi? È stata principalmente la passione. Io mi sono permesso di giudicare l'automobile come una conquista di libertà per l'uomo. Enzo Ferrari è un uomo totalmente dedito al lavoro e molto solo, nonostante la presenza della moglie e la sua grande passione per le donne. La morte di suo figlio Dino nel 1956 gli ha lasciato un vuoto incolmabile. Schivo, riservato, con una vena malinconica dovuta alle esperienze intense che ha vissuto, nasconde dietro un'aria severa una profonda timidezza. E senza dubbio uno dei tratti distintivi del suo carattere è l'umiltà. Egoisticamente mi interessava. Mi tranquillizza il pensiero che quello che ho fatto non abbia nociuto il mio prossimo. Se poi qualcuno ne ha tratto beneficio, allora trovo il mio egoismo trova una giustificazione. Il suo egoismo ha trovato una giustificazione nella gioia dei tifosi, nell'esultanza di milioni di appassionati nel mondo, nel fervore con cui nelle case tutti insieme la domenica si seguono le gare. L'automobilismo sportivo infatti non è solo uno sport, è diventato anche un rito sociale, un'abitudine consolidata. La passione per questa epopea fatta di spettacolo e drammi si trasmette di padre in figlio. E pensare che tutto è nato da un uomo, Enzo Ferrari. Un uomo che sogna un automobilismo nuovo, che vuole affrontare la sfida della tecnologia. Un uomo che cerca qualcuno che lo faccia vincere e lo trova in Tazio Nuvolari. Allacciate la cintura, perché tra poco racconteremo questo incontro ruggente, qui a Destini Incrociati. Destini incrociati. Ladies and gentlemen, start your engine. A Destini incrociati siamo sulla griglia di partenza. Stiamo raccontando la nascita del mito Ferrari, che deve la sua vita e il suo successo a due grandi uomini. Enzo Ferrari, naturalmente, e Tazio Nuvolari. Enzo Ferrari nel 29 fonda la sua scuderia da una costola dell'Alfa Romeo e si prende cura di tutto personalmente, dal controllo delle vetture alla scelta dei piloti. Già nel suo primo anno di attività la scuderia Ferrari può vantare ben 50 piloti. Il team partecipa a 22 gare, totalizzando 8 vittorie e parecchie ottime prestazioni. Nella scuderia i piloti non ricevono un salario, ma una percentuale sui premi delle vittorie. Qualsiasi loro richiesta tecnica o amministrativa, però, viene immediatamente esaudita. Il clima in Ferrari è sereno, vivace. C'è voglia di sfidare la sorte e le leggi della fisica. C'è voglia di vincere. L'uomo giusto per tutto questo è Tazio Nuvolari. Gran Premio d'Italia del 31, a Monza. Ancora un passaggio di Nuvolari che, bloccato da un guasto al 33esimo giro, è costretto al ritiro. La gara sembra per lui irrimediabilmente compromessa. Vittorio Diano, quando la 2003 di Campari si ferma al rifornimento, decide di affidare la vettura a Nuvolari. Sarà la 2003 che Nuvolari porterà alla vittoria, una delle tante di una lunga serie. E infatti Nuvolari, con le Alfa della scuderia Ferrari, inforca una vittoria dietro l'altra per la gioia di Enzo. Quella del 32 è una stagione trionfale. 16 corse disputate, 7 vittorie assolute, nonché 5 di classe. Gran Premio di Monaco, Targa Florio, Gran Premio d'Italia, Gran Premio di Francia, Circuito di Avellino, Coppa Ciano, Coppa Acerbo. È campione italiano assoluto e primo nel campionato automobilistico internazionale. Il 1933 non è da meno. Nuvolari e la Ferrari sono ancora protagonisti assoluti della scena, portando a casa ben 11 vittorie. Ma il 33 è anche un anno critico. Nuvolari, esaltato dai successi, vorrebbe farcela con le sue gambe. Ed è così che avviene lo storico divorzio da Ferrari e si mette in proprio, non senza difficoltà. Facendo squadra a sé, dispone di mezzi limitati e di macchine non sempre competitive. Inoltre, la sorte sembra avergli voltato le spalle. È ad Alessandria quando ha un incidente gravissimo. Reagisce come al solito e dopo poco più di un mese è di nuovo sulle piste, arrivando quinto nella corsa dell'Avus con la gamba sinistra semi bloccata da una fasciatura rigida. Ma la stagione non è buona, continua a ritirarsi dalle gare e quando arriva fino in fondo si piazza male. Il mantovano volante fa la pace con Enzo Ferrari e nel 1935 torna a difendere i colori della scuderia. Nuvolari, appena tornato in Ferrari, macina successi. Ma l'impresa più grande la compie nel Gran Premio di Germania. È al volante della P3, vecchia, assolutamente non all'altezza delle nuove vetture dei due formidabili squadroni tedeschi, Mercedes-Benz e Auto Union. Eppure Tazio compie il miracolo. È il suo capolavoro, la sua vittoria impossibile. Il Gran Premio di Germania, il trofeo più ambito dalle case automobilistiche tedesche, è stato invece appannaggio della monoposto Alfa Romeo, magistralmente pilotata da Tazio Nuvolari. La leggenda Nuvolari continua. Sta facendo grande la scuderia Ferrari nel mondo e rende orgoglioso Enzo, che è sempre più felice di averlo scelto come pilota di punta. Tazio ama il rischio, non si ferma di fronte a niente. Fa incidenti, accumula ferite e fratture in tutto il corpo, rischia di bruciare vivo nel rogo della sua macchina e di rimanere schiacciato dal peso della vettura. Corre senza volante, ma non molla. Enzo fa il tifo per lui. I due festeggiano e soffrono insieme. Ma il dolore fisico è niente in confronto al dolore del cuore. La vita di Tazio è costellata di avvenimenti tragici. Mentre sta attraversando l'Atlantico per tornare a disputare la Coppa a Vanderbilt, riceve la notizia della morte del primogenito Giorgio, di 19 anni. Pochi anni dopo, morirà anche l'altro figlio. Il dolore è immenso, gareggiare è difficilissimo. Tazio continua a correre, ma riduce le gare. Non manca qualche vittoria storica, ma comincia a essere molto stanco. Nel 48 riesce a mettere in scena la sua ultima memorabile impresa. Siamo ancora una volta alla Mille Miglia. Tazio va alla partenza a Brescia per salutare gli amici, ma non deve partecipare, non è iscritto. Quando gli offrono una Ferrari, però, non sa dire di no. Non è allenato, non corre da un anno, ha 56 anni e la sua salute è cagionevole, è distrutto dal dolore e stanco. Eppure parte come un fulmine, travolge le folle. I fari dei partenti fungono la mezzanotte. Dopo un inizio a 145, Nuvolari è primo a Roma, con una media di 126. 12 minuti di vantaggio, toccherà la mezz'ora. Dopo il cofano seminerà il resto per via. Una Mille Miglia segnata dal destino. A Reggio Nuvolari è costretto a ritirarsi, ma è solo lo sfortunato epilogo di un'epopea. Il nome di Nuvolari è già entrato nella leggenda. Ferdinand Porsche lo considerava il più grande pilota del passato, del presente e del futuro. Per il suo amico Enzo Ferrari, neanche a dirlo, è il più grande pilota di tutti i tempi. Quando Nuvolari nel 53 muore, per Ferrari è un grande dolore. Al funerale a Mantova è affranto. I giornali riportano così la notizia. È morto un mito, un sognatore. Un figlio dell'automobilismo fatto di lacrime e brividi, eccitazione e paura, rischio e passione. Con Nuvolari muore l'automobilismo romantico. Allora lo sport era predominante. Oggi ci sono molte altre componenti economiche che sacrificano lo sport. Direi che è cambiato tutto. Sono cambiate le strade, sono cambiati i regolamenti, sono cambiate le consuetudini. Sono cambiate le macchine, il mondo ha camminato velocemente, per quanto ritengo che non vi sia niente di nuovo. E se Nuvolari è riuscito a diventare immortale grazie alle sue imprese, Ferrari ha conquistato l'immortalità grazie alle sue vetture. Qual è la macchina la più importante che lei ha costruito? Quella che devo ancora costruire. Everybody gotta do in